cosa divina. Qualche gioia salute da me, te barbone da sera a mattina, finché un dì te dover mie. Che emozion quando però la sposina la te dis finalmente siamo in tre. Sentis chiama papà, don Mascet che sorride in la cuna. Sentis chiama papà, a te passa il nervoso e la luna. Te guarda sta gioia, te il gire sfeggiò, la notte se sveglie, te il guarda d'ammo. Te in giochi manasci, la miela te dis, attenzione spunge il no coi barbi. Sentis chiama papà, del piacere più se bella della vita, ma che grano e bei don, che una gioia d'uma. Sentis di papà, sentis chiama papà, l'è una roba che dà un'importanza. Sentis chiama papà, mi suonò come fan quei chi insensa. Pensè che spettacolo quando torni a mesdì, e lui sul calzon e il me fa la pipì. E ai quattro de notte quando il tac frignà, par che il disa si sveglia papà. Sentis chiama papà, l'è un piacere più se bella della vita, ma che grano bei don, che una gioia d'umà. Sentis chiama papà.